col dubbio che sia stata lì da rosa, perché se non avete il titolo del magazzino, è una presa dell'acqua, però la gamba, la gamba, la gamba.